Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. In primo piano i rapporti tra Unione Europea e Grecia. Il portavoce della Commissione Schinas ha detto poco fa che il Presidente della Commissione Europea Juncker e il Premier della Grecia Tsipras avrebbero ristabilito le relazioni personali. Hanno concordato di tenere un altro incontro oggi allo scopo di vedere se si può continuare a cercare una soluzione sul debito greco. E la stessa Schinas è anche intervenuta sul piano europeo per l'immigrazione, ha detto: difenderemo la nostra proposta sul meccanismo obbligatorio per 40.000 ricollocamenti intra UE da Italia e Grecia. La Libia, come sapete, nel caos. L'ISIS avanza anche alla coesistenza di due governi, quello ufficiale riconosciuto a livello internazionale con sede a Tobruk e il governo islamista di Tripoli. Serve un accordo sull'unità nazionale anche per trovare una soluzione alle due maggiori emergenze in Europa, cioè terrorismo e immigrazione clandestina. In tal senso si muovono gli sforzi dell'inviato speciale dell'ONU Leon. Ieri si sono riuniti a Berlino tutti i membri del Consiglio di Sicurezza della Nazione Unita, Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, con Italia, Germania, Spagna, Unione Europea, delegati libici. I paesi hanno espresso il totale sostegno alla proposta di risoluzione presentata dall'ONU. Ora si passa alle autorità libiche. Livia Zancanella ha intervistato Antonio Panzeri, membro della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo. La strada è quella di fare in modo che le diverse componenti libiche comprendano fino in fondo che se non trovano un accordo l'alternativa è l'ulteriore disgregazione, ma diventa un problema enorme per la Libia, non solo per la Libia. Quindi c'è una politica di comprensione che stiamo attuando, di rendere consapevoli le diverse componenti che è necessario che quel tavolo negoziale produca un effetto positivo con la formazione di un governo di unità nazionale a direzione tecnocratica, perché ovviamente tutte le parti politiche che oggi si confrontano in qualche modo hanno legami antichi anche con il passato, e questo non renderebbe possibile la formazione di un governo di natura politica, per cui bisogna spingere in quella direzione ed è l'unica possibilità anche per risolvere i problemi che produce questo conflitto libico, con le ricadute, penso al tema da una parte del terrorismo e dall'altra del processo migratorio. È corso il vertice tra la comunità dei paesi dell'America Latina, dei Caraibi, CELAC e l'Unione Europea. È un vertice tutto incentrato sui rapporti economici, quello che si sta svolgendo tra ieri e oggi qui a Bruxelles, tra l'Unione Europea e l'America Latina. Eppure, vecchi rancori politici sono emersi nella cena di ieri sera tra il primo ministro britannico David Cameron e il ministro degli esteri argentino Héctor Timerman. Quest'ultimo, secondo l'agenzia di stampa ufficiale argentina Telam, avrebbe rimproverato la Gran Bretagna di avere un atteggiamento colonialista nelle Falklands, l'arcipelago inglese che fu oggetto di una breve guerra tra i due paesi nel 1982. Un portavoce inglese ha spiegato che Cameron si è difeso in modo robusto. Da Buenos Aires, il presidente della Repubblica Argentina, Cristina Fernández, ha accusato il primo ministro inglese di essere quasi maleducato. In un contesto internazionale sempre molto teso, un conflitto trentennale di altri tempi ha riacceso bruscamente gli animi. Bella Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. L'antitrust europea ha aperto un'indagine sul sistema di vendita degli ebook di Amazon. In particolare si faranno accertamenti su alcune clausole incluse nei contratti che Amazon stipula con gli editori, che si sospetta possano creare problemi di concorrenza sul mercato, riducendo la possibilità di scelta dei consumatori. 14,6 minuti, 7 secondi. Vi saluto qui Daniele Biacchesi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.